Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Lei è lì, sotto il telo. Lo tolgo senza curarmi del via vai di muratori del cantiere. La mia attenzione è rapita da quelle lamiere malconce, opache, bisognose di cure, ma ancora affascinanti. Lei è una Lancia Flavia. Sono Paolo, ingegnere meccanico di Piacenza, ho 37 anni. Sono sposato con Chiara, che ho conosciuto grazie alla mia Lancia Flavia del 1961. Sono legato al mondo dell'automobile sia per lavoro che per passione. Quando ci hanno detto che avremmo fatto una puntata in cui raccontavamo storie di auto d'epoca e quindi ci dicevano chiediamo un po' di racconti, non mi aspettavo sinceramente che arrivassero così tante storie come quelle che sono arrivate, un numero esorbitante di persone che raccontano la loro passione per le quattro ruote. Sembra Andrea De Adamis così, la passione per le due e quattro ruote. Esiste ancora Andrea De Adamis? C'è ancora quel programma Grand Prix, il sabato pomeriggio lo vedevo sempre a pranzo, accendevi e ti guardavi Grand Prix. E poi c'era lui, c'era Nico Cerghini che provava le moto. Vabbè, è anche quello un po' vintage come ricordo. Però auto e moto d'epoca, dicevo, non mi aspettavo che arrivassero così tante storie, che ci fossero così tante persone innamorate di queste auto, detto male, vecchie, cioè auto con una certa età. Soprattutto perché mi dicevo, in città, in giro, per strada, non è che le vedi. E poi ho capito che se le tengono belle nel garage, al caldo, e le tirano fuori solo quando serve. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 in punto. 349 238 6666 è il numero per mandare i vostri sms, perché oggi il tema è un po' quella lì, è un po' se ce l'avete, se un'auto d'epoca, quale auto avete, ma soprattutto nell'animo di voi automobilisti al volante adesso, voi che tipo di automobilista siete, cioè qual è la vostra identità? Siete un alfista, siete un lancista, se si dice, siete un BMWista, un audista, un fiatista, neanche fiatista, un chryslerista, un renoista, qualunque cosa siate. 349 238 6666, oppure il profilo Facebook è sempre quello lì. Voi siete qui, Radio 24. È ancora una splendida giornata di tramontana a Milano, sembra di essere in una città atlantica oggi, e continuiamo a raccontare storie, lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo dal lunedì al venerdì e al sabato, come vi dicevo l'altro giorno, ieri poi l'altro giorno cominciamo a raccontare anche storie di diari, quindi non solo episodi di vita ma proprio i vostri diari o i diari di qualcuno che conoscete, che ha frequentato le zone che frequentate voi e ve li siete ritrovati in mano. Voi siete qui, @radio24.it. Oggi vi dicevo è la puntata in cui raccontiamo storie di auto e moto d'epoca, grazie al salone delle auto e delle moto d'epoca che adesso sicuramente, guarda, Lucia che oggi sostituisce Miriam magistralmente, sicuramente troverà i dati precisi però li do dopo, dai, li do dopo il racconto, perché sennò faccio la figura di quello che non è mai preciso. Intanto continuiamo a raccontare la storia, perché noi partiamo sempre da qui, l'avete capito, lo avrete capito, partiamo da una storia. Questa è la storia di Paolo e della sua Lancia Flavia. Una soleggiata mattina di marzo. Sono in piedi sulla 92 come ogni giorno, direzione università, tutto regolare. Viale Lancetti, la solita coda per il semaforo. Stanno ristrutturando uno stabile sulla destra e la mia attenzione è attratta da un telo logoro che nasconde qualche cosa lì nel cortile. Poi una folata di vento si fa complice, solleva un lembo del telo scoprendo così una coppia di fari gemellati e un angolo di paraurti cromato. Sembra poco? Per qualcun altro forse. Per me è chiaro, lì sotto c'è una Flavia. Arrivo in università, dovrei studiare elettro col Berga, ma messolo al corrente decidiamo di rimandare al pomeriggio e in 5 minuti siamo in viale Lancetti. Lei è lì sotto il telo. Lo tolgo senza curarmi del viavai di muratori del cantiere. La mia attenzione è rapita da quelle lamiere malconce, opache, bisognose di cure ma ancora affascinanti. Il sole di marzo si riflette sulle cromature facendole luccicare come l'acqua del mare in un pomeriggio d'estate. L'auto era del padrone dello stabile, morto da tempo. Lei è rimasta nello scantinato, dimenticata per anni. Adesso è tornata a vedere la luce. Il signor Cattaneo, figlio dell'ex proprietario, si occupa di tutto, della ristrutturazione dello stabile per conto della Porsche Italia. Io ho già deciso, la voglio. Le trattative per l'acquisto si protraggono per mesi. Cattaneo dice di essere super impegnato, che devono inaugurare i primi di giugno, che ci penserà dopo. Finalmente a novembre sembra che l'affare si avvii alla conclusione. È martedì. Chiamo Cattaneo, ho fretta di toglierla da quel marciapiede. È un miracolo che ci siano ancora le quattro borchie cromate e che i cristalli siano intatti. Noto però che ha tolto le targhe. Il dramma. È un gesto semplice, di poco conto apparentemente. Otto viti cromate che decidono la salvezza o meno di un'auto storica su un marciapiede. Lui mi dice che i vigili, il lunedì, l'hanno portata via, perché senza le targhe, perché abbandonata, perché non c'è posto per una vecchia e gloriosa Lancia nel cortile della Porsche. La Lancia Flavia è stata un'auto di svolta per la Lancia stessa, nel senso che ha introdotto tantissime novità tecniche, quasi tutte anteprime europee se non mondiali, come la trazione, soprattutto la trazione anteriore, poi il motore boxer. Non era una vettura che andava a sostituire una vettura esistente, ma era una vettura ex novo che si inseriva tra i modelli esistenti del marchio. Intanto il tempo e gli anni passano, ma il ricordo della Flavia di Viale Lancetti è vivo. Ormai ho deciso. La mia prima classica sarà una Flavia, prima serie, come quella là. Su ruote classiche, alla L, gli annunci sono tanti. Le Fulvia Coupé non si contano, di Flavia Coupé ce ne sono tante, ma ad un certo punto sembra quasi più facile trovare una Flaminia bicolore grigio Tor di Valle Nero piuttosto che una semplice Flavia prima serie. Ce n'è una a massa, ma è smontata da riverniciare. Me la consegnano a domicilio. 3 milioni. Poi c'è quella di un giudice di Milano, è perfetta, restaurata due volte, ha partecipato a due film, 10 milioni. D'altro canto si sa, le attrici hanno cachet elevati. Fino a 6 milioni io conto di arrivarci, il lavoro estivo in fabbrica rende bene. Tolte le spese per l'università, dopo 6 anni qualcosa ho messo da parte. Non è facile trovarla. Decido di mettere un annuncio nel sito del registro storico Lancia, forse tra amici qualcuno può aiutarmi. E infatti... Una settimana dopo arriva un'email. Caro socio, penso di avere l'auto che cerchi. Più che una vendita, è un regalo. Fabio, Carpi, Modena. Io sono un po' scettico, ma telefono. Dice che è stata restaurata fuori e che dentro è originale ma in buono stato. Solo il cruscotto è da rifare. Ma del resto si sa, chi si illude di trovarne una originale è a posto. Poi si arriva al dunque. Guardi, come l'avevo anticipato è quasi un regalo. Mi dia 2 milioni o anche meno se le sembra troppo. Ci mettiamo d'accordo per andarla a vedere la domenica successiva. L'appuntamento è per le 15 al casello di Carpi. Alle 14:20 siamo già là. La casa è una cascina ristrutturata. Con la vecchia stalla da un lato, questa anch'essa restaurata, è stata trasformata in uno scrigno incantato. Quando apre il portone l'emozione sale. Il cuore batte forte, dentro uno spettacolo che lascerebbe senza fiato ogni appassionato di classiche, e forse anche chi di classiche non si è mai interessato. Coperte da lenzuoli di lana ordinatamente su due file, sono schierate. Un'Augusta, la Delta vincitrice dell'ultimo campionato del mondo rally conquistato dalla Lancia. Poi l'Aurelia B21, la Flavia, sulla prima fila. Una B24 America, una B20, una Fulvia Coupé da rally e un'altra Delta Gruppo N sull'alta. E non è tutto. Dal meccanico di fiducia pare ci sia una Lambda, con la quale partecipa alla 1000 miglia, e una Flavia Coupé. In mezzo a quelle nobili lamiere, in effetti la Flavia è il pezzo meno pregiato, ma non importa. Quando la vedo, la riconosco. È lei. L'ho ritrovata. Una sottile emozione mi invade. Una nota curiosa, targata Piacenza. Evidentemente era destino che io la riportassi a casa. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia Torpedo blu. In effetti la descrizione del proprietario è rispondente al vero. Fuori è perfetta, come i due divani, e l'imperiale sembra addirittura nuovo. Ruggine in giro, poca o niente, mi sembra quasi si sia accorta che per lei qualcosa sta cambiando. Concludiamo l'affare, i 2 milioni sono un regalo. Andrò a prenderla in settimana quando avrò trovato un carro attrezzi ad un prezzo onesto. Venerdì, mi chiama Diego. Sto arrivando da Como, ho consegnato una osso di seppia. Partiamo alle 15. Intanto passo da Mario, che si occuperà della Flavia. Lo avverto, Mario è un vecchio meccanico della Guzzi, un meccanico alla vecchia maniera, sempre con lo straccetto in quelle manine d'oro. Alle 16.30 siamo dal proprietario, la carichiamo, la pago e via, verso casa. In autostrada i camionisti allungano il collo per guardare il prezioso carico. Qualche macchina si affianca, da dentro danno una sbirciatina. Quando arriviamo è quasi sera. Alla vista della vecchia berlina, dal bar di fronte all'officina, escono alcuni signori sulla settantina, lì per la solita briscola. Qualcuno la Flavia ce l'ha avuta, qualcuno l'ha sognata. Dalle ferramenta accanto spunta un compressore per gonfiare l'anteriore destra. Tutti vogliono dare una mano per spingerla nel cortile. Ho comprato, diciamo, quell'auto, l'ho vista per la prima volta quando ero ancora studente di ingegneria. Mi interessavo ovviamente di meccanica, eccetera, quindi per me rappresentava proprio una vettura simbolo. E nel momento in cui sono riuscito ad acquistarla, diciamo, in un colpo solo sapevo di avere in mano un oggetto per me di grande valore, ma proprio dal punto di vista tecnico, diciamo così, e poi anche sentivo che era il mio esordio, diciamo così, nel mondo delle auto d'epoca. Anche Mario, il meccanico, di solito calmo e taciturno, salta come un grillo. Si mette subito al volante. In effetti una Flavia non è cosa da poco. Adesso posso guardarmela con calma. L'anteriore destra non chiude bene, va registrata, ma in compenso le altre tre si chiudono con un ovattato clac che lascia intuire la qualità costruttiva di questa quarantenne. Ti siedi sul divano posteriore, il panno fa le fusa, sei a teatro. I cristalli panoramici, i due divani uguali. Il padiglione alto creano un'atmosfera particolare d'altri tempi, sconosciuta alle macchine di oggi. Laggiù in fondo sulla sinistra al volante, grande, più grande di quelli moderni, sembra il timone di una nave. In effetti la Flavia proprio piccola non è, con i suoi 4 metri e 58 è un macchinone. Ha 40 anni ma li porta bene. Il layout interno rispetta canoni attualissimi però, i posti sono 6, il pianale è completamente piatto. Il cambio al volante non toglie spazio ai passeggeri. Se si parlasse delle sue caratteristiche senza nominarla, la Flavia sembrerebbe una moderna media di classe. 4 feni a disco, cinematismo dei cristalli a pantografo con precisione di movimento degna di un Rolex, luci di ingombro sulle porte, limitatore di sterzata per quando vai a sciare e monti le catene e infine una presa di corrente nell'abitacolo per la quale il libretto d'uso e manutenzione recita «utile per una torcia portatile o un rasoio». Il motore è un gioiellino, tutto in lega d'alluminio, con le camicie sfilabili intercambiabili. Dopo 2 giorni di cure, Del Mario parla, canta, ma non grida. Se non fosse per la marmitta buca non si sentirebbe quasi. Il muso sembra quello di un caccia, con la calandra a listelli cromati più bassa e avanzata rispetto ai fari. In mezzo lo scudo, stilizzato, cromato, ricorda il casato di appartenenza. Sulla destra una cosa che ogni lancista vorrebbe avere, uno stemma del club HF, Lancia. Non è il suo, l'ho trovato in una tasca portaoggetti interna, ma ci sta di un bene. Non vedo l'ora di guidarla, o meglio, condurla. Ma sono tranquillo. Ormai è qui, al sicuro, ritrovata. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino amaranto si racca l'incanto del 46. È ovviamente appoggiato alla sua splendida Lancia Flavia, Paolo, nella foto che ci ha mandato. E se non sapete che auto era Lancia Flavia, andate a vederla su questa foto al nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. Lui ha una giacchina blu, dei jeans, sembra una domenica mattina dall'aria che c'è intorno. Deve essere in un cortile, lei è veramente splendida. Grigia, metallizzata, tutta cromata e, devo dire, non l'avevo mai vista prima, ma lei è chiaramente una Lancia Flavia. Pronto Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Matteo. Come stai? Buon pomeriggio anche a te. Tutto bene, grazie, grazie. Dove ti trovi? In questo momento sono a casa. Okay, però, a casa però, per poter partecipare alla trasmissione. Ti sei preso mezza giornata? Esatto, esatto. Però di solito che lavoro fai? Io lavoro in un'azienda che produce importanti componenti appunto per il settore auto e quindi diciamo che la mia passione per le auto e per l'auto d'epoca in particolare la vivo anche un po' in quel modo lì, professionalmente. Ma scusami, pezzi importanti tipo? Tipo quadri strumenti. Scotti, quindi per vetture. Però roba moderna, evidentemente. Moderna, assolutamente. Però non hai fatto fatica a trovare il cruscotto per la tua Lancia Flavia? No, quello no. All'epoca insomma c'era questa ditta che riproduceva appunto tutti i componenti rovinati e quindi sono riuscito a reperirlo, poi pian pianino smontando il vecchio, quello presente sulla vettura, ho capito come installare nuovo. E l'hai fatto tu quindi? Sì, quello l'ho fatto, sono riuscito a farlo da solo. Il bello di essere un ingegnere. Devo dire che la tua storia ha scatenato veramente tutti i patiti di auto d'epoca. Arrivano una marea di messaggi. Ciao bello, sono un alfista, precisamente un duettista. Ho un duetto del 74, bianco capotina blu. Sono un alfista, ho posseduto un Alfa 75. Poi ancora, sono un renoista. Renoista. Ho una Renault Turbo 1 blu del 1980, prima serie. Ed è per merito di quell'auto che ho conosciuto, mi sono innamorata del mio attuale compagno. Ah, è una donna. La Renault Turbo 1, non so, non sembra neanche esistesse. Invece, scusami, Paolo, tu ce l'hai ancora la Lancia Flavia? Sì, assolutamente. Volevo solo aggiungere una cosa alla storia che avete letto. Sì. La macchina era targata a Piacenza e dopo ho scoperto che era praticamente del medico di famiglia dello suocero di mio suocero. No. E quindi in pratica si è un po' chiuso un anello, ecco. Cioè, diciamo così. E com'è che l'hai scoperto? Perché facendo un giro diciamo con la mia macchina ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata mia moglie. E nel momento in cui poi ho presentato la vettura a mio suocero, gli ho detto a chi apparteneva, visto che avevo ancora il libretto originale. Lo suocero mi fa, ma questo era il mio medico di famiglia. E quindi è come se un po' la macchina fosse tornata a casa, insomma. Ok, sì, insomma, chiarissimo. Diciamo che c'era qualcosa che la spingeva verso di te, oltre al prezzo. Esatto. Senti, tu quanti anni hai adesso, Paolo? Io ne ho 37. La storia risale a circa 13 anni fa, quando ancora ero uno studente. Quindi tu a 24 anni, 24 anni avevi già una passione per auto. Nel senso sì. Quest'auto qua, adesso io veramente la vedo per la prima volta, non è una macchina che di primo acchito dici no sicuramente non è una macchina tra le più diffuse, non è un maggiolino che può piacere ai ragazzi e tantomeno certo. Una Porsche 356 certo. 356 giusto è una semplice berlina per me molto interessante con tante soluzioni innovative per l'epoca e come dire è stato un po' il coronamento di un sogno, di un piccolo sogno. E poi devo salutarti Paolo, ne hai altre o hai solo questa? Ho anche una Lancia Appia, sempre Lancia, sono un lancista diciamo così, un'Appia un po', che è una vettura un po' più piccola, del 1960 anche quella, progettata un po' prima e quindi... Paolo, ti ringrazio molto per la storia e per la foto, andatevela a vedere che è bellissima. A presto. A voi. Ciao Paolo. A presto. Ciao, ciao. Grazie. E alla fine, dalla storia di Paolo, ho capito che, primo, le auto d'epoca possono sembrare vecchie solo se non le sai guardare. Secondo, i collezionisti d'auto sono di solito molto strani e quasi sempre molto ricchi. Terzo, la prima auto d'epoca è un po' come il primo bacio. Rischi di prenderti una grande sola. Quarto, se un vecchio meccanico si eccita per un'auto, quell'auto deve essere veramente una figata. Quinto, credo che mi metterò a cercare online una vecchia Lancia Flavia. E come vi dicevo prima, appunto, siamo qui a raccontare queste storie perché dal 23 di ottobre, che in realtà è una preview, al 26 ottobre, alla Fiera di Padova, c'è un appuntamento unico in Europa con il Salone delle Auto e delle Moto d'Epoca. Vi ricordo le date, dal 23 al 26 ottobre, cioè sostanzialmente da oggi fino a 23, 24, 25, 26, fino a domenica, giusto? Quindi tutti gli appassionati di auto d'epoca lo sapranno, tutti gli altri che invece hanno voglia di farlo farsi un giro in quel mondo senza dover per forza spendere troppi soldi, ma vedersi belle auto, possono andare alla Fiera di Padova a vedersi il salone. Sono arrivati un sacco di messaggi e diciamo non ve li posso leggere tutti. La cosa che viene fuori è che c'è un grandissimo orgoglio quando si parla della propria auto, e soprattutto se ne parla di solito come di un essere umano e soprattutto come di un amante. Maggiolino Volkswagen del 70, la nostra passione, firmato Fernando e Daniela. E poi chiudo con un messaggio che è una grande incognita di Elio, che dice: e se al posto di un'auto d'epoca fossero treni storici? Elio, non vedo l'ora di vedere il tuo garage. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, grazie a Lucia Tolve, grazie soprattutto a Paolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Federico, viva Genova, la storia di domani è la mia e parla di un uomo in mare. Questa è la mia storia e io sono qui. Auto d'epoca, alla Fiera di Padova dal 23 al 26 ottobre. Vi ha presentato Voi siete qui.